Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Finalmente andremo dal parrucchiere, soprattutto voi ragazze. Ciao Chiara Albicocco. Buonasera Federico, benvenuti a tutti. Senza quell'insostenibile, sottolineiamolo, insostenibile senso di colpa. Benvenuti e benvenute a Mebius e sentiamo i titoli di questa puntata e poi incominciamo. Nascono i saloni natura, sono quelli degli ecoparrucchieri con le 10 regole d'oro per il rispetto dell'ambiente. Arriva dall'Oriente e si mangia un sacco di nostre piante, è un bell'insetto a vedersi, ma dobbiamo fermarlo. La fine del mondo, dall'apocalisse all'ecocidio, è il titolo del nuovo libro scritto dall'antropologo Massimo Centini. Siamo destinati a scomparire nel 2012 o a data da destinarsi? I segreti di Caravaggio svelati da uno scanner all'infrarosso. Ha scoperto un disegno sotto la famosa cena in Emmaus. Anche dal latte può arrivare un forte contributo alla tecnologia dei biocombustibili. Allora Chiara, chi è il nostro ospite? Sì, Federico, devo dire che io sono qua per parlare di ecoparrucchieri, ma in realtà non è che ne faccio gran uso, questo lo voglio dire. Sì, in realtà ne abbiamo dato notizia quest'estate, perché è un progetto comune che nasce da L'Oréal, la serie quella diciamo eco-friendly che si chiama Nature, e Federparchi. All'inizio il connubio ci sembrava un po' strano, avevamo sentito l'ex presidente di Federparchi e ora abbiamo qui il neo presidente di Federparchi che ci racconta che finalmente sono nati questi saloni natura, cioè finalmente in Italia abbiamo gli ecoparrucchieri. Intanto benvenuto a Giampiero Sammuri. Buonasera. Buonasera Sammuri. Dunque sono nati finalmente in Italia, sono 105 i saloni di bellezza eco che strizzano l'occhio all'ambiente, è così? Sì, esatto, c'è questa attenzione appunto de L'Oréal nel lavorare all'interno dei propri saloni, diciamo contenendo gli impatti negativi che possono avere queste attività sull'ambiente e andando anche in qualche modo a compensarle. Un salone di parrucchiere, Federico prima diceva bisogna avere un po' il senso di colpa, è davvero così inquinante? Cioè io ho guardato un pochino dei dati, in effetti un salone medio con un afflusso di 20-25 persone al giorno per una messa in piega che dura, non so, una mezz'oretta, ecco, quanto consuma all'anno? Mi sembra che il dato sia abbastanza consistente anche a livello di emissioni proprio di CO2. Esattamente, perché si deve considerare tutte le componenti che entrano in gioco all'interno di questo processo, no? E che vanno da quello che appunto è la produzione proprio del prodotto che viene utilizzato, no? Perché chiaramente si utilizzano shampoo, lozioni e quant'altro che appunto per essere prodotti creano appunto delle emissioni ovviamente in atmosfera. Poi c'è proprio l'attività vera e propria e quindi l'utilizzo delle fonti energetiche di vario tipo e poi c'è ovviamente la produzione comunque di materiali di risulta, rifiuti che appunto poi devono in qualche modo essere smaltiti, quindi alcuni dei quali hanno anche un impatto che può essere in qualche caso anche significativo. E come lei dice, scusi, ci sono una serie di prodotti che vengono usati dai parrucchieri come shampoo, creme varie, che indubbiamente nella loro fase di produzione, quindi prima che arrivino dal parrucchiere, sono energivori, però cosa facciamo allora? Cioè non scompaiono gli shampoo? No, assolutamente no. Intanto c'è da dire che questa linea che appunto sta lanciando L'Oréal, la linea Nature, si pone intanto l'obiettivo di utilizzare tecniche e prodotti comunque a più basso impatto ambientale, quindi intanto si parte dall'origine, voglio dire, no? E poi c'è la famosa, che poi era la base degli accordi di Kyoto, la famosa compensazione, cioè se io produco CO2 posso anche fare qualcosa per abbatterla e se compenso chiudo poi in pareggio questo bilancio. Certo, quindi magari piantando degli alberi. Esattamente, tra l'altro in questo ambito appunto L'Oréal finanzia dei progetti di riforestazione proprio che noi seguiamo in alcune zone d'Italia che vanno proprio a compensare questo aspetto delle emissioni. Ed ecco qui che entra in gioco appunto Federparchi. E poi c'è proprio il decalogo che l'ecoparrucchiere deve seguire, cioè ci sono delle regole precise. Sì, infatti, perché ovviamente ci sono anche nella conduzione di una normale attività, ma anche questo vale per le attività che tutti noi quotidianamente facciamo, dal farsi la barba appunto a lavarsi i capelli, cioè ci sono appunto delle modalità che, a lavarsi i denti eccetera, che creano meno utilizzo di risorse, di energia e quindi meno emissioni, insomma, no? Quindi in qualunque delle nostre attività possiamo fare questo, e questo lo si può fare anche in un'attività, anzi a maggior ragione, come quella di un parrucchiere, che può avere un buon impatto. Sì, qui per esempio ci sono delle cose comportamentali che possono diventare importanti. È vero che dai parrucchieri, per esempio, i phon sono sempre accesi, anche le piastre tendono a essere mantenuti accesi. Qui per esempio si dice che se si riesce a risparmiare, vediamo un po', ecco, si può arrivare a risparmiare spegnendolo negli intervalli fino a 6 kWh e quindi circa 150 kg di CO2 immessi in atmosfera, che sono veramente una bella botta. Infatti questo è il comportamento virtuoso, che tra l'altro ha un riscontro diretto anche diciamo nelle tasche di chi gestisce l'attività, perché poi l'energia si paga, insomma, è vero. No? È vero. E quindi questo è un aspetto, e l'altro aspetto è quello che ovviamente se ne consuma meno e quindi si emette meno CO2 in atmosfera. Mi sembra che il Piemonte abbia il primato di questa nuova professionalità che è il parrucchiere ecologico, e ne abbia, mi sembra, 15. E nel resto della penisola come siamo messi? Beh, diciamo, sono distribuiti un po' a macchia di leopardo, come si vede, si va appunto da delle regioni che ne hanno poche unità, appunto a quella che ce n'ha come il Piemonte fino a 15, però diciamo che è una pratica che si sta diffondendo, c'è anche un lavoro promozionale che viene fatto a questo riguardo, quindi diciamo i saloni sono destinati ad aumentare, insomma, ecco, che molto rapidamente, a mio giudizio. Parrucchieri umbri, vergognatevi, ne avete uno solo. Calabria e Basilicata, ecco, devono fare qualcosa. Se siamo, che crescano. Se siamo in filo di fusione in qualche parrucchiere, sappiatelo, dovete darvi da fare. C'è anche da dire che alcune regioni hanno comunque più parrucchieri, altre ne hanno meno, quindi i numeri assoluti, il rapporto, certo. Esatto, poi bisognerebbe fare proprio le percentuali. Ma in Umbria mica ce ne sarà uno. No, però diciamo il Piemonte è molto più grande dell'Umbria, insomma, come abitanti, come cosa, quindi diciamo magari non sarà 15-1 il rapporto reale, anche sarà un 7-1, un 8-1, che comunque è sempre molto, ecco, certo. Però diciamo va compensato, ecco. Come li riconosciamo questi parrucchieri? Appunto, hanno c'è qualcosa sull'insegna? Diciamo che su questo qui c'è un lavoro anche di carattere, di messaggio anche mediatico, che chiaramente va in qualche modo portato avanti, insomma, no? Perché chiaramente potranno mettere un simbolo, un marchio all'esterno del locale stesso, e poi lo potranno anche utilizzare nelle loro forme pubblicitarie secondo i canali tradizionali, appunto quelli mediatici e quelli anche cartacei che vengono utilizzati. Diciamo che con questo buon esempio Federparchi potrebbe diventare praticamente la partner di tutte le professioni, no? Dal macellaio, dando delle buone regole, dando un attestato, potrebbe essere una... Perché tu dici Federparchi vuol dire che per esempio per compensare piantano alberi. Piantano alberi, potrebbe loro, piantarlo dal macellaio al salumiere al lattaio, no? Sì, infatti noi abbiamo iniziato questa collaborazione con L'Oréal, però indubbiamente la vogliamo estendere, cioè vogliamo cercare di far capire che ci sono tanti modi per combattere il cambiamento climatico, le emissioni di CO2, intanto limitandole ma poi anche compensandole, insomma, ecco, quindi, e questo vale per tutte le attività umane, insomma, ecco, non è che ce n'è una di più o di meno. Questa dell'Oréal è abbastanza emblematica, perché in effetti è un'attività che può avere un grosso impatto. Va bene, Presidente, allora grazie e speriamo che qualcuno segua questi buoni consigli. Io ne sono convinto, la sensibilità sta aumentando fortunatamente. Ci darà un po' di dati entro breve per sapere come sono cresciuti. Sì, sicuramente ci risentiremo e vi potrò dare dei dati. Grazie, arrivederci. Tante cose, arrivederci. sul nostro sito www.moebiusonline.eu, Chiara, noi abbiamo l'elenco dei parrucchieri, cioè nome e cognome. Se a qualcuno è venuto voglia, uomini, donne, di farsi una piega magari lunedì mattina, vi diamo tutte le spiegazioni. Ha preso il via giovedì scorso, ma durerà fino al 21 marzo. Vi sto parlando di Scienze in Piazza, Bologna, manifestazione che è arrivata alla sua quarta edizione. Per il programma completo, il sito www.lascienzeinpiazza.it. Scelgo da questo programma alcune cose particolari da segnalarvi. Per esempio, si può capire qualcosa in merito ai cambiamenti climatici studiando i quadri di qualche secolo fa? Sì, a Bologna ve lo spiegheranno, analizzando i cieli nei quadri del Tintoretto, per esempio. E poi lo sentite anche nella nostra trasmissione, i temi che riguardano il risparmio energetico, la sostenibilità sono fortunatamente all'ordine del giorno, però per capirci di più è bene osservare come funzionano alcuni fenomeni di base che riguardano l'energia, per esempio la produzione di energia elettrica, oppure come funziona una cellula fotovoltaica e anche la differenza fra solare fotovoltaico e solare termico. Infine, ne parleremo anche più avanti qui a Moebius, c'è tutto lo scenario dei biocombustibili, ma come si può estrarre un combustibile dalla materia vegetale. A Bologna ci saranno dei laboratori con dei tutor che vi spiegheranno tutto questo. A Scienze in Piazza c'è anche del teatro su temi scientifici e qui voglio ricordarvi, guardate, leggo direttamente dalla locandina dello spettacolo: mirabolanti evoluzioni da circo, pallini, clavi, mattoni da giocoliere, diavole, monocicli. Quando invece il giocoliere è anche un uomo di scienza, il gioco diventerà sapere e il sapere avrà il gusto dolce del divertimento. Uno spettacolo conferenza di e con Federico Benuzzi, giocoliere professionista applaudito al celebre circo di San Pietroburgo, docente di fisica e matematica. Sembra di leggere quelle locandine del grande mago Houdini un secolo fa, ma lo spettacolo di Bernuzzi è di fatto un misto di magia e scienza. Vi ricordo il sito ancora www.lascienzeinpiazza.it, a Bologna fino al 21 marzo. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso vi tocca il quiz, dovete indovinare, siamo arrivati al nostro gioco. Dunque, siamo nella settimana dell'8 marzo, festa della donna, so anche che molte donne sono critiche verso questa ricorrenza, insomma, non si sa mai cosa fare. Noi non andiamo oltre il tema del quiz per ricordare questa data, lo so, forse potevamo trovare un argomento più nobile, ma è andata così. La domanda dunque è questa: quando si è avuta nella storia la prima donna dentista? Sì, convengo che è una follia, questo quiz. Comunque, è così, prendetelo com'è. Prima possibilità, fu a Creta e quindi intorno al 1800 avanti Cristo, ci scriverete Creta. Due, fu nel Medioevo e per l'esattezza nella cittadina tedesca di Tubinga, nella prima metà del 1200, ci scriverete 1200. Oppure, ultima possibilità, a metà del 500 in Inghilterra e ci scriverete 500. Come ce lo scriverete? Con il solito SMS 349-238-6666, 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Guida alle leggende sul clima che cambia, come la scienza diventa opinione, di Stefano Caserini, Edizioni Ambiente. In collaborazione con IBS.it. Allora, adesso esco dallo studio, vado ad Agraria, qui a Milano, esattamente al DIPSA, e sono seduto intorno al tavolo con due signore e una signora e ho anche di fronte un portachiavi che è stato fatto qui e sul portachiavi c'è un insetto e l'insetto è il protagonista di questa intervista. Mario Colombo, DIPSA, quindi Facoltà di Agraria di Milano, Università Statale. Costanza Jucker, sempre anch'io del DIPSA, collaboratrice del professor Colombo e dottorando. Matteo Maspero della Fondazione Minoprio di Como. Voi vi interessate esattamente? Com'è che facciamo ad arrivare al personaggio del portachiavi? Beh, ci interessiamo sostanzialmente di insetti, però questo era quando il DIPSA era istituto di entomologia agraria. Adesso ci occupiamo anche di biodiversità e di altri elementi che caratterizzano il paesaggio. Per arrivare all'insetto si potrebbe arrivare proprio tramite il paesaggio, nel senso che è un insetto, è una specie di quelle che va a modificare l'assetto paesaggistico del territorio. Io credo che adesso possiamo anche dire, perché probabilmente molti nell'area Beh, poi ci direte in che area esattamente. Avranno visto di recente dei manifesti in cui sembrano quelli del Texas di una volta, del Far West, no? Ricercato, wanted. Se l'avete visto, segnalatelo. Dov'è questo insetto? È stato rinvenuto per la prima volta in provincia di Milano, a Paraviago, e in seguito al monitoraggio che ha richiesto più anni, la sua diffusione adesso su circa 20 comuni, sempre della provincia di Milano, e recentemente è stato individuato anche in provincia di Brescia. Ma quando è stato individuato? Nel 2000-2001 dall'Istituto di Entomologia. Dopodiché questo insetto, il cui parente stretto era stato rinvenuto sempre in quel periodo anche negli Stati Uniti, a New York, Chicago, New Jersey, ci si è resi conto che era una specie particolarmente dannosa per le piante e che meritava un certo interesse un intervento. Tant'è che è diventato uno dei principali problemi per il servizio fitosanitario della regione Lombardia. Questi manifesti stanno venendo fuori adesso, quindi il problema è esploso proprio negli ultimi tempi, insomma, negli ultimi paio d'anni, un anno. Sì, in effetti il lavoro più grosso, boom di questo insetto e del controllo, della sensibilità anche da parte degli enti regionali, è avvenuto circa due o tre anni fa, quando una grossa campagna, una delle più grosse di sensibilizzazione, è stata attivata da Regione Lombardia. Quanto è grande questo insetto? Qui nel portachiavi sono 3 centimetri, ma è grande così? È lungo più o meno 3 centimetri e mezzo, la femmina è più lunga rispetto al maschio, ma hanno poi queste antenne molto lunghe, per cui l'insetto può arrivare fino a circa 7 centimetri, antenne che sono più lunghe del corpo. Quindi è un animale grosso. Adesso sul nostro sito, il sito della trasmissione, metteremo la fotografia. E voi dite che bisogna dare informazioni, cioè chi lo vede deve segnalare. Beh, intanto diteci cosa combina questo insetto. Combina sostanzialmente un danno a carico di tutte le piante legnose, tranne le conifere e alcune latifoglie. Il danno è determinato dalle larve, le quali entrano in queste piante, che sono dei piccoli arbusti, fino a piante di calibro significativo, tipo dei platani, con un diametro di 80 cm, facendo delle lunghe gallerie, indebolendo quindi la struttura, e chiaramente una serie di queste gallerie determinano poi il deperimento delle piante, lo schianto o comunque, almeno all'inizio, semplicemente della sofferenza. Il problema è che è esponenziale la diffusione, perché ogni femmina depone 50-70 uova, quindi nel volgere di poco tempo la moltiplicazione è molto evidente. Colpisce le siepi, per dire, di lauro ceraso, che in gergo tecnico vengono chiamate autostrade, perché non si vedono le larve, perché sono nel legno e usano queste piante per distendersi lungo il territorio e oltrepassare anche delle barriere poco facili da superare. Qualora fosse visto da chiunque, bisogna avvisare chi? Diciamo che la Regione Lombardia, settore agricoltura, è quella che è preposta tramite l'ERSAF, il servizio fitosanitario, a presidiare questa situazione. Quindi la Regione o l'ERSAF sono i due enti preposti al controllo, quindi a loro bisogna segnalare la presenza. Anche i dubbi è meglio comunque manifestarli in maniera tale che si verifichi se è questa specie o altre meno nocive. Senta Juker, questo è ricercato numero uno, ma mi pare che non è il solo come pericolo. No, infatti numerosissimi sono i rinvenimenti ogni anno di nuove specie che possono arrivare da altri paesi, soprattutto dall'Asia in particolare. E per citarne alcuni che probabilmente molte persone conoscono in ambito urbano, ad esempio ricordiamo la cameraria, anche se oggi ormai quasi non è più un problema in quanto vengono effettuati numerosi trattamenti fitosanitari, oppure ancora il Dryocosmus curifilus sul castagno, oppure sui nostri terrazzi il Cacirus marshalli, quella bella farfalla, un licenide che sta completamente devastando tutti i gerani ormai in tutta Italia. Ma per questo non è ancora scattato un allarme, avvisateci? Perché in fondo sapete già esattamente dove e come sono? Dipende anche dai danni sicuramente che fa l'insetto. Anoplophora chinensis è un insetto da quarantena, in quanto si reputa che i danni causati da questo insetto vadano a minacciare, siano dei danni economici, dei danni ecologici, così come ad esempio anche Dryocosmos corifilus. Mentre per quanto riguarda questa farfalla che attacca i gerani, sicuramente è un insetto molto dannoso, ma per ora non ci sono delle misure di lotta obbligatorie e per cui una, diciamo, una minore attenzione. Ecco Maspero, lei lavora appunto sul campo per intervenire nella, diciamo, nella protezione, no, da questo tipo di invasione. Da dove arrivano? Come arriva? Anoplophora chinensis, o tarlo asiatico, si che sposta. Il nostro, sì, che è il nostro numero uno. Tarlo asiatico è il nome comune che la regione ha ideato per far sì che nelle persone rimanga più facilmente memorizzato. Testa, certo. Si muove attraverso piante vive, quindi piccole piante che, come aceri, che vengono importati costantemente dall'Oriente, dal Giappone o dalla Cina, proprio perché da là arrivano queste specie. E quindi ce lo ritroviamo qua in questo modo. Ritroviamo qua, infatti è all'ordine del giorno la segnalazione di partite di materiale vegetale proveniente da quei paesi contenenti le larve criptiche di questo insetto. E con tutta probabilità anche da noi è stato introdotto in quel modo. Abbiamo parlato dell'emergenza lombarda, ma c'è un'emergenza nazionale anche per questo tarlo? Beh, l'emergenza è europea, cioè è riconosciuto come insetto pericoloso per tutta l'Europa e per tutto il mondo. In Italia abbiamo avuto la fortuna di trovarlo per la prima volta in Europa e di trovare poi la diffusione di questo insetto. Attualmente si diffonde su diverse province in Lombardia, in un areale piuttosto vasto, tant'è che già da qualche anno la regione è intervenuta tagliando migliaia e migliaia di piante, ma benché il controllo sia estremamente attento riesce sempre a sfuggire, proprio perché in natura la biologia aiuta qualsiasi specie. Al di là della presenza in Lombardia di questa specie, è stato trovato a Roma, peraltro in una situazione molto diversa dalla nostra, nel senso che era nella zona delle ambasciate e, pur essendo intervenuti tempestivamente, hanno avuto oggettive difficoltà molto grosse perché le ambasciate sappiamo sono territorio non nazionale. Per dire proprio come un insetto possa procurare problemi anche di tipo diplomatico. Una specie affine invece è stata trovata in Veneto. Ora io dico affine nel senso che per gli entomologi ha una differenza, una dall'altra sono marcate, in realtà per la persona che si occupa di tutt'altro sembrano identiche, con biologia diversa eccetera eccetera, però ecco, anche il Veneto è contaminato da una specie molto simile a questa. Va bene, allora c'è una struttura di intervento quando viene localizzato in una certa area piuttosto che un'altra della regione, però c'è anche della ricerca per vedere se si riesce ad avere un intervento preventivo, insomma, altre strade. Beh, la prevenzione è attuata dai servizi che controllano la merce in entrata con i limiti del caso, nel senso che con le tonnellate di merci che arrivano da tutto il mondo è difficile poter controllare questo, anche questo ingresso, anche l'ingresso di questo insetto pur essendo grande. La ricerca è sostanziale nel contrasto, nel controllo, perché se noi non conosciamo la biologia dell'insetto è chiaro che non possiamo poi trovare i punti deboli. Non vale assolutamente il fatto di utilizzare la bibliografia e quindi conoscere la biologia dei paesi d'origine, perché per esempio proprio questo tarlo asiatico nei paesi di origine attacca gli agrumi e qua, anche perché non ci sono gli agrumi, ma attacca pesantemente aceri, ontani, olmi eccetera eccetera. La ricerca quindi è finalizzata a conoscere meglio l'insetto, trovarne i punti deboli e intervenire in tempi brevi con metodi chimici. E poi soprattutto, come capita di solito con queste specie invasive, con i metodi biologici. Proprio in questo contesto abbiamo rapporti con la Francia e l'America, ricercatori francesi e americani, rapporti che ci hanno arricchito nelle conoscenze e per esempio ci hanno consentito di trovare una nuova specie al mondo. Quindi. Ma con metodi biologici cosa intendete? Per esempio riuscire a renderli sterili? No, individuare quelle specie, nel caso specifico appunto di insetti che parassitizzano questi tarli. Ecco, una nota curiosa, come magari più appetito dalla gente, è il fatto che in moltissimi casi, proprio essendo larve grosse, quindi gradevoli agli uccelli, assistiamo a una predazione forte dei picchi. Possiamo aspettare, insomma, che sentiremo molte raffiche di picchi qua e là nei nostri boschi, vorrà dire che stanno cacciando il nostro numero uno. Beh, paradossalmente, ecco, l'arrivo di questa specie, diventando alimento abbondante per i picchi, determina poi un incremento della popolazione dei picchi, e i picchi sono anche belli da vedere, specialmente quello verde. Non solo l'attività di prevenzione e contenimento di cui abbiamo appena parlato, ma anche la ricerca di base su questi insetti è finanziata dalla Regione Lombardia. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni tanto il mondo deve finire, è finito tante volte nella nostra storia di umani. Mi viene in mente quella battuta di Mark Twain che diceva smettere di fumare, banale, l'ho fatto un sacco di volte. Barbara Galavotti vi sta per parlare della più imminente fine del mondo. Ultimamente la fine del mondo più popolare è quella Maya, o meglio quella ispirata ai Maya, perché loro, i Maya, sembra che proprio non abbiano mai pensato a fissarla per il 2012, quando si dice che avverrà. Il giorno preciso sarebbe il 21 dicembre. Beh, è il giorno del mio compleanno, sarà veramente un festeggiamento particolare se sarà quello della fine del mondo. La fine del mondo però è qualcosa di profondamente radicato nella nostra cultura, e a lei ha dedicato un libro Massimo Centini, antropologo all'Università Popolare di Torino. Il libro si chiama ovviamente La fine del mondo, dall'apocalisse all'ecocidio, ed è edito da Ananke. Buonasera Massimo Centini. Buonasera. Nel suo libro passa in rassegna varie fini del mondo, compresa l'apocalisse. Fra l'altro dice che forse parlare di apocalisse oggi è segno di non perfetto equilibrio mentale, però ciononostante l'apocalisse è profondamente radicato nel nostro modo di vedere le cose. Perché abbiamo tanto bisogno di pensare a una fine del mondo? Le risposte possono essere di diverso tipo, ci può essere quella della teologia, quella della religione, quella dell'uomo di fede, ma ci può essere anche quella della psicologia o più semplicemente quella dell'antropologia e della sociologia, che in qualche modo tende a vedere il concetto di fine del mondo come una presenza importante, antropologicamente importante, nelle culture. Tutte le culture hanno ipotizzato una fine del mondo, così come tutte le culture hanno ipotizzato una genesi della loro formazione, della loro evoluzione, della loro venuta in terra. La fine del mondo ha un valore importante anche dal punto di vista pedagogico, perché in qualche modo sottolinea, conferma l'esistenza di una fine e di un mondo altro in cui i buoni avranno il premio e i cattivi il castigo. La fine del mondo ha anche quella che potremmo definire una sorellina più piccola, che è la fine della civiltà, e anche questo è un pensiero universale, persino nella modalità con cui può avvenire. Una delle idee più diffuse è che la civiltà finirà, ad esempio, per un grande diluvio. Sì, va osservato questo, che il concetto di fine del mondo si sovrappone a quello di fine della civiltà, fine dei tempi. Sono aspetti diversi di un'unica problematica. Certamente noi dobbiamo tener conto che in passato, quando si parlava ad esempio di diluvio universale, spesso si definiva appunto universale quell'evento catastrofico perché aveva colpito una determinata civiltà, che nella visione antropocentrica di quella cultura, in quel periodo in cui non si conosceva un granché al di fuori del proprio cerchio esistenziale, si finiva appunto per dare a quella fine locale una caratura mondiale, universale, che di fatto non aveva. Ecco, diciamo che le fini del mondo hanno avuto un'origine sostanzialmente di questo stampo, con questa struttura. Ecco, però il tema del diluvio ricorre dall'India, la saga di Gilgamesh, ovviamente la tradizione ebraica, l'arca di Noè, a molte altre tradizioni. È lo stesso diluvio che è stato un po' rimbalzato da una cultura all'altra, oppure l'ipotesi del diluvio è sorta indipendentemente da ciascuna civiltà che si vedeva colpita da un'alluvione particolarmente violenta? Beh, diciamo che il concetto dell'acqua che distrugge è un concetto abbastanza unificato, posizionato negli archetipi universali che caratterizzano il cervello dell'uomo, la mente dell'uomo, il pensiero dell'uomo. Indubbiamente alcuni diluvi hanno influenzato gli altri. Lei ha citato Gilgamesh, è l'esempio del grande diluvio della Mesopotamia. Innegabilmente, come altre figure della Mesopotamia, come altri temi della religione, del mito mesopotamico, hanno fortemente condizionato la tradizione giudaico-ebraica. Ma insomma, Massimo Centini, quando sarà la fine del mondo? Io non lo so, se lo sapessi l'avrei scritto nel libro. Diciamo che probabilmente facciamo attenzione a quello che ci dicono i geologi, i naturalisti, delle fini nel mondo ci sono state, non proprio degli eventi catastrofici di grandissima entità si sono già ripetuti nel corso del tempo. L'estinzione di massa. È una sorta di estinzione di massa, certo. Ovviamente se noi guardiamo la televisione, se guardiamo un certo filone cinematografico che su questi temi ha dato delle prove di grandissimo interesse appunto dal punto di vista poetico, narrativo, e certamente la fine del mondo sembra sempre lì dietro l'angolo. Io credo che la fine del mondo, se mai ci sarà, è una questione forse più di fede fino ad oggi che di altro tipo, nel senso che quella eminentemente legata all'ecologia, alla natura, all'inquinamento, eccetera, è un altro tipo di fine del mondo, non strutturata, non così immediata come quella che le religioni hanno descritto. Ma che forse noi leggiamo anche con il peso della nostra tradizione che è imbevuta di concetti di fine del mondo. Sicuramente questo sì, certo, questo senz'altro. Noi abbiamo dentro la nostra cultura elementi caratteristici del concetto della fine del mondo che usiamo e trasferiamo tutti i giorni nella nostra esperienza quotidiana. Forse non abbastanza, perché se riuscissimo a pensare che il tutto ha un fine, forse riusciremo a vivere meglio anche il nostro presente. Grazie Massimo Centini, buonasera. Buonasera. C'è un grande orizzonte tecnologico nel quale il nostro paese può diventare leader assoluto a livello mondiale. Sono le tecnologie applicate allo studio, conservazione e divulgazione del patrimonio artistico. Forse qualcosa di buono si sta muovendo in questa direzione. E quello che si può ottenere a volte è proprio sorprendente. Ascoltate Maurizio Menis. Beh, sembra non ci sia proprio speranza per un onesto pittore di correggere un errore oppure di cambiare idea su un quadro senza che tutti lo sappiano. Beh, questo ammesso che valga la pena di sottoporre il dipinto allo scanner multi-NIR sviluppato dal gruppo Beni Culturali del CNR INO di Firenze. E quanto è stato fatto appunto con la cena di Emmaus di Caravaggio, dipinto datato 1606, rappresenta appunto una famosa cena protagonista Gesù, il quale ha riservato questo quadro non poche sorprese. Ne parliamo con Luca Pezzati, che è appunto coordinatore del gruppo Beni Culturali del CNR. Buonasera Pezzati. Buonasera. Senta, ma io le devo fare subito questa domanda. Ma cosa vi è saltato in mente di gettare nel panico tutti i caravaggisti che adesso sono disperati perché gli è crollato il mondo addosso? Perché voi avete fatto una scoperta veramente inattesa. Sì, sì, assolutamente, e devo dire è una scoperta anche per noi, perché non ce l'aspettavamo minimamente. Analizzando questo dipinto abbiamo trovato delle tracce di disegno preparatorio, che nel caso del Caravaggio era vietato dalla norma corrente, e poi abbiamo scoperto addirittura una finestra che era stata poi coperta dallo sfondo nero tipico di altri disegni dello stesso pittore. Di Caravaggio, senta, perché appunto si pensava che Caravaggio dipingesse direttamente, mentre la stragrande maggioranza dei pittori tracciano prima il disegno, lo schema anche in modo molto dettagliato e poi ci dipingono sopra. Si pensava che invece Caravaggio non rispondesse alla norma. Sì, questo era il credo comune, e effettivamente la maggior parte dei pittori nella pittura antica specialmente preparano dei disegni anche molto elaborati, anche molto complessi. Nel caso del Caravaggio io non voglio scendere in dettagli perché sono un fisico, no? Non è il suo mestiere e nemmeno il mio. Era ritenuto che si trattasse di preparazioni, qualche volta delle incisioni, ma mai delle linee di disegno preparatorio. Questo perché negli anni non si era mai visto. Invece ultimamente con questo nuovo strumento abbiamo scoperto che anche lui disegnava. In più nel quadro c'era una finestra originalmente che rappresentava un paesaggio anche un po' bucolico, insomma, e che è sparita. Adesso c'è un bel fondo nero. Sì, questo è un grosso pentimento che abbiamo scoperto, perché appunto è stato possibile grazie al fatto che lo strumento nuovo riesce a vedere oltre anche il nero del Caravaggio. Ecco, infatti arriviamo a questo punto allo strumento. È uno scanner appunto a infrarossi. Io le chiedo, prima di descrivere lo strumento, perché gli infrarossi consentono di vedere attraverso uno strato di pittura? Com'è possibile? Allora, io intanto inquadrerei questa tecnica con il suo nome. Si tratta di una tecnica che va sotto il nome di riflettografia. La riflettografia nacque come fotografia infrarossa negli anni 30. Già negli anni 30 del secolo scorso ci si accorse che fotografando dei quadri con la pellicola infrarossa si vedeva qualcosa sotto la pittura. Poi alla fine degli anni 60 è nata proprio la riflettografia in senso come tecnica elettronica, utilizzando dei tubi sensibili all'infrarosso, tubi per telecamere, quindi vecchie telecamere a tubo. Dico vecchie perché anche la televisione in quegli anni si faceva con delle telecamere a tubo. Ma perché l'infrarosso ha questa proprietà di mostrare quello che sta sotto ciò che invece noi nella luce visibile vediamo? Qui si entra nel campo dell'interazione radiazione-materia, quindi dell'infrarosso con la materia degli strati di pittura. Diciamo che ci sono due cose fortunate che fanno sì che la riflettografia è una tecnica così di successo per l'analisi dei dipinti. La prima è che fortunatamente nei dipinti antichi gli strati pittorici sono molto sottili generalmente. Perché andavano a risparmio. Perché andavano molto a risparmio, i materiali erano costosi e questo fa sì che la luce visibile, quindi quella che noi percepiamo a occhio, non ci fa vedere cosa c'è dietro, altrimenti il pittore non sarebbe stato particolarmente bravo. Certo. Sì, e invece utilizzando l'infrarosso, cioè questa radiazione nell'infrarosso vicino, che ha una lunghezza d'onda dalle 2 alle 4 volte più lunghe della lunghezza d'onda media della luce visibile, succede che questa radiazione viene diffusa in modo minore e anche assorbita in modo minore dallo strato pittorico, quindi lo rende praticamente semitrasparente, ci consente di entrare dentro e di vedere cosa c'è dentro e cosa c'è dietro soprattutto. Ecco, cosa è cambiato però rispetto al passato? Perché lei appunto ci ha appena spiegato che la tecnica della fotografia infrarossi, per così dire, veniva già utilizzata. Sì, diciamo che la visibilità ottenibile con la riflettografia è molto cresciuta passando dalla fotografia infrarossa, per esempio, alla riflettografia infrarossa degli anni 60. Ciò nonostante, facendo la riflettografia tradizionale, nessuno è mai stato capace di attraversare certi pigmenti abbastanza difficili. Il nero del Caravaggio è uno di questi, contenendo molto carbonio, non era mai stato visto niente con l'infrarosso. Anche perché il Caravaggio è famoso proprio per questi sfondi neri e queste luci accecanti che cadono sui protagonisti, diciamo, del quadro. Sì, esatto. Infatti. È uno dei pittori per i quali, per esempio, non veniva nemmeno più fatta la fotografia in infrarossa perché ci avevano rinunciato. Si pensava che non si vedesse comunque mai niente. E devo dire che con i nostri vecchi strumenti operanti in banda larga, noi ne abbiamo fatti diversi negli anni di quadri di Caravaggio e non abbiamo mai visto niente. Effettivamente. Tutto questo è successo con questa nuova tecnica di acquisire la riflettografia in 16 bande invece che in una banda unica. È come se, diciamo, per fare un paragone con la luce visibile, è come se voi guardaste i singoli componenti di colore, no? È come esatto, guardare nel come rosso, guardare nel verde e nel giallo. I colori invece che tutto il bianco, ecco. Praticamente invece di un'immagine sola, il nuovo strumento ci consente di acquisire 16 immagini infrarosse, ciascuna con le sue caratteristiche di visibilità. E in alcune di queste, sotto il Caravaggio, siamo riusciti a vedere attraverso lo sfondo nero, tanto che abbiamo dichiarato che si riesce a vedere un disegno che di per sé è nero attraverso un nero. Certo, ecco, quindi in alcune di queste bande molto strette voi avete visto il disegno. Il motivo per cui quindi prima non si vedeva è che queste bande venivano mescolate tutte, come dire, altre. Le immagini di tutte le bande venivano mescolate e quindi il contrasto veniva praticamente azzerato, sì, non si vedeva niente. Per 80 anni, tanto è quanto l'utilizzo dell'infrarosso per analisi pittoriche data dagli anni 30, quindi sono 80 anni che si fanno queste indagini e non si era mai visto niente attraverso certi pittori. Caravaggio uno di questi. Ora poi lo strumento è molto nuovo, quindi speriamo di avere ulteriori sorprese. Certo, ce lo auguriamo tutti. Senta, forse vale la pena di spendere due parole su come avviene la scansione del quadro, perché in realtà non è che voi avete una specie di macchina fotografica che fa una fotografia tutta insieme del quadro. Ci spiega invece come funziona? Per ottenere un'immagine infrarossa in bande abbiamo una specie di grande spettrofotometro in fibra, è un dispositivo composto da una meccanica di scansione un metro per un metro. E questo strumento, questa meccanica, si porta a giro praticamente una testa ottica e la scansione avviene per colonne, avviene un po' come la scrittura sul foglio di una stampante a getto d'inchiostro. D'accordo. Un punto alla volta per colonne. Ecco, solo che lì non scorrerà il quadro, poverino, no, ma sarà la meccanica. Testa che si muove in tutte e due le direzioni, ecco, insomma. Va bene, allora i caravaggisti avranno moltissimo da fare nei prossimi anni e noi, come dire, auguriamo a loro buon lavoro e soprattutto, infatti, lo auguriamo a voi. Grazie Pezzati. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. Quando si è avuto nella storia la prima donna dentista, non fu a Creta, non fu nemmeno a Tubinga, suonava bene, insomma, ma però è falso. Invece fu in Inghilterra a metà del Cinquecento. Attenzione che a quei tempi non esisteva la professione del dentista come una specializzazione medica. Il dentista era di fatto il barbiere. Faceva la barba agli uomini, tagliava i capelli alle donne, ma le donne li tenevano molto lunghi, e poi toglieva i denti. John Brickett, famoso barbiere dentista, dentista londinese, muore. La moglie decide di prendere in carico la professione del marito. Non ci furono posizioni particolari, però il fatto non passò nemmeno, come dire, del tutto naturale, tant'è vero che si ritrovò appiccicata questa signora barbiere la seguente definizione: l'Afrodite ciarlatana. Ciarlatana perché, insomma, si diceva ha preso il posto del marito, ma aveva quella professionalità del barbiere dentista? Boh, non lo sapremo mai. Siero del latte. Cosa ci si può fare? Siamo nel terzo millennio, signore e signori in ascolto, e quindi Chiara Albicocco adesso vi spiega come dal siero del latte può uscire un biocombustibile. L'anno scorso ha ricevuto la medaglia d'oro al Meet di Boston per aver partecipato agli IGEM 2009, la Student Competition sulla biologia sintetica, con un progetto per la produzione di biocarburante a partire dal siero del latte. Adesso, nel gennaio 2010, Nature, la prestigiosa rivista, lo ha citato in un articolo sui progressi della biologia sintetica. Lui è Paolo Magni, docente di bioingegneria presso l'Università degli Studi di Pavia, ed è qui con noi questa sera. Buonasera. Innanzitutto, professore, complimenti per le sue ricerche che hanno portato risultati importanti e riconoscimenti prestigiosi. Ma ora ci deve spiegare bene che cosa succede nei vostri laboratori. Allora, il nostro progetto, appunto, come ha detto, riguarda la produzione di biocarburanti, in particolare di etanolo, a partire dal siero del latte. È bene dire, perché magari non tutti lo sanno, che il siero del latte, che deriva dalla produzione dei prodotti caseari, dei formaggi in particolare, è considerato un rifiuto industriale e deve essere smaltito con opportune procedure, in quanto... E possiamo dire che è proprio quella parte liquida, giallastra, che si separa dalla cagliata, ad esempio per fare la ricotta, è proprio quella soluzione liquida che rimane dopo la lavorazione del formaggio. Esattamente, quella parte liquida biancastra che resta e che è ricca di elementi nutritivi. È il motivo principale per cui non si può in qualche modo smaltire liberamente nelle fogne questo materiale, perché altrimenti, grazie al suo grande carico nutritivo, farebbe proliferare batteri e altri esseri viventi, creando sostanzialmente l'asfissia delle acque. In realtà questo, il siero, è un grosso problema per quanto riguarda l'industria casearia, proprio perché va smaltito opportunamente. Nel passato questo veniva fatto utilizzandolo come prodotto alimentare per quanto riguarda l'allevamento dei suini. Ah, ok. Che però ad oggi non sono più in qualche modo in grado di ricevere tutto il prodotto che esce dall'industria casearia. Se ne produce troppo. Se ne produce troppo. Allora, quello che ad oggi viene fatto già in alcuni stabilimenti, soprattutto per quanto riguarda nel centro Europa, è quello di estrarre alcune di questi elementi nutritivi che sono dentro il siero del latte, in particolare le sieroproteine, per poi venderlo sia sul mercato dell'alimentazione degli animali, sia per quanto riguarda anche l'industria alimentare, quindi per l'alimentazione umana. E ciò non toglie che le procedure ad oggi messe in campo consentono di ridurre il potere inquinante del siero del latte, ma alla fine di questo processo, diciamo, di lavorazione del rifiuto, rimane ancora una quantità di lattosio abbastanza significativa. E voi avete escogitato un modo interessante per sfruttarlo. Sì, quello che noi abbiamo pensato è stato, attraverso, diciamo, della fermentazione, abbiamo pensato di trasformare questo lattosio in, appunto, etanolo, che può essere un carburante che può essere utilizzato miscelato alla benzina nella trazione, sostanzialmente. Quindi la fermentazione, le dice, quindi di batteri, lieviti? Sì, esattamente, infatti quello che noi abbiamo fatto, potevamo scegliere sia batteri che lieviti, noi abbiamo scelto, almeno in questa prima fase, di utilizzare dei batteri, in particolare usiamo Escherichia coli. Che conosciamo bene. Abbiamo modificato questo batterio per introdurre quei percorsi, diciamo, fermentativi che consentissero di trasformare il lattosio in etanolo, perché in natura E. coli questo non lo fa, e abbiamo costruito, diciamo così, questo nuovo organismo in modo da produrre l'effetto. Ed è questa, diciamo, l'idea e in qualche modo, anzi, la realizzazione che noi abbiamo portato a Boston, come prima lei diceva, nel mese di novembre scorso. Per cui siete stati premiati. Ecco, ma questo etanolo prodotto da questa fermentazione di Escherichia coli può arrivare ad alimentare, che so, un'automobile, o forse deve essere miscelato con dell'altro carburante? Oppure è possibile, insomma? Allora, diciamo, l'etanolo che noi produciamo è sostanzialmente... che noi vogliamo produrre, diciamo meglio, è sostanzialmente lo stesso che viene prodotto con la fermentazione della canna da zucchero, soprattutto in paesi come il Brasile. Quindi può essere utilizzato miscelato alle benzine, oppure per esempio in Brasile mi sembra che lo utilizzino fino al 90% in qualche modo per direttamente la trazione delle automobili, quindi in qualche modo può essere messo anche quasi, tra virgolette, puro nei normali motori a benzina per quanto riguarda poi il funzionamento delle macchine stesse. E non inquina, non rilascia polveri sottili? Beh, ecco, qui bisogna fare una precisazione, nel senso che credo che abbia un potere inquinante sicuramente meno della benzina. La cosa per cui è particolarmente interessante e quindi viene a tutti gli effetti considerato un biocarburante è la seguente. Noi sappiamo che al di là delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nella benzina, il grosso problema che si ha attraverso, diciamo così, l'inquinamento prodotto dagli autoveicoli è il rilascio della CO2. Quella, sì. Che poi crea, quella che poi crea l'effetto serra, i cambiamenti, certo, climatici, certo, e tutte quelle cose di cui parliamo. Ecco, l'idea che si ha nella produzione di biocarburanti, sia adesso provenienti da canna da zucchero, come in questo caso dal siero del latte, è che la CO2 che viene comunque sprigionata dalle automobili quando bruciano il loro carburante, è comunque una CO2 che è già in circolo. Cioè era la CO2 che precedentemente stava... nel nostro caso dentro il siero del latte, che precedentemente le mucche hanno ingerito attraverso l'erba, che precedentemente è stato fissato dall'atmosfera. Come dire, c'è una CO2 circolante che rimane in circolo e non viene in qualche modo aumentata, perché il problema che noi sappiamo è l'aumento della, certo, CO2. Quando invece andiamo a bruciare il petrolio, in qualche modo sprigioniamo quella CO2 che stava sottoterra. E quindi mettiamo nel circolo, diciamo così, della catena alimentare o dello CO2, mettiamo delle quantità di CO2 in eccesso, creando così l'effetto serra. Quindi il grosso contributo, diciamo, di biocarburanti, delle cosiddette energie rinnovabili, fonti di energia rinnovabili, è proprio questo, cioè di rimettere in gioco lo stesso CO2, lo stesso carbonio nel ciclo di produzione, consumo e così via. Sì. In particolare, particolarmente interessante, diciamo, questo progetto, questa idea, perché per esempio a differenza del etanolo prodotto dalla canna da zucchero, che da un punto di vista poi di composizione chimica è lo stesso, diciamo lo sfruttamento del siero del latte in qualche modo utilizza una materia prima che di per sé c'è già. Cioè noi facciamo il formaggio, abbiamo il siero del latte e questo siero non sappiamo cosa farne. Di sfruttare e valorizzarlo, perché una delle, diciamo così, polemiche o comunque discussioni che c'è in ambito scientifico nella produzione dei biocarburanti, compreso il bioetanolo da canna da zucchero, è che chiaramente per andare, oppure da materie lignee o cose di questo tipo, è che per andare a produrre queste carburanti, diciamo, di nuova generazione, dobbiamo sottrarre terreno all'agricoltura, quindi all'alimentazione, creando poi le turbative e l'aumento dei prezzi nel campo alimentare, e soprattutto dobbiamo utilizzare tutte quelle cose che servono per l'agricoltura, quindi il petrolio per far andare i trattori piuttosto che i concimi, eccetera eccetera. Quindi diciamo un ottimo esempio per tutto, sia di riciclo del rifiuto che di sfruttamento di energie alternative pulite, se vogliamo dire. Esattamente, in qualche modo qui stiamo utilizzando un prodotto che già c'è, tra virgolette un rifiuto, ecco, in qualche modo, con cui in ogni caso dobbiamo avere a che fare, quindi dobbiamo fare i conti. Come diceva lei all'inizio, in Europa, se non sbaglio, in Germania e in Spagna ci sono dei casi, delle sperimentazioni in cui alcuni caseifici, anche piuttosto grossi, hanno deciso di trasformare poi il siero, il rifiuto che rimane, in etanolo. E invece in Italia come siamo messi? In Italia credo che siamo messi abbastanza a livello zero, nel senso che I grandi consorzi, che possono essere quelli del Grana Padano, pure la Parmalat, che aveva un grande bacino di raccolta per quanto riguarda la produzione del siero, anzi diciamo di formaggi, poi la produzione del siero, raccoglieva il siero e lo spediva in Germania dove veniva lavorato. Ecco, perfetto. Da cui venivano estratte le sieroproteine e poi rimandate indietro in Italia per l'allevamento degli animali. Quindi chiaramente con tutta una logistica e anche qui dal punto di vista, se vogliamo, ambientale, un trasporto di merci che è abbastanza strano. Possiamo auspicare che le cose possano cambiare? Sì, no, le cose cambieranno sicuramente e stanno cambiando, perché per esempio so che in Lombardia si sono attrezzati con degli impianti per quanto riguarda l'estrazione delle sieroproteine, proprio nella zona, diciamo, tra il Mantovano e il Bresciano. So che in Sardegna sono molto attivi alcune ditte con cui siamo in contatto per quanto riguarda il riciclo del siero del latte, mm-hmm. per la parte che riguarda appunto estrazione di sieroproteine. Diciamo che il nostro progetto vorrebbe andare un po' più in là, sfruttare ancora un pochino di più il prodotto, il rifiuto, e aggiungere a questi impianti quel passo per poi arrivare alla produzione appunto dell'etanolo. Speriamo davvero, Magni, che anche in Italia si possa passare dalla ricerca, diciamo, di base alla pratica. Sì, no, appunto, volevo solo rimarcare quest'ultima sua considerazione, perché devo dire, come lei ha detto in apertura, abbiamo avuto diversi riconoscimenti dal punto di vista scientifico e questo ovviamente ci fa piacere, e adesso quello che a noi piacerebbe proprio fare è, da qui a un paio di anni, uscire dal laboratorio e realizzare dei prototipi. Il problema è che per far questo abbiamo bisogno di finanziamenti, e come tutti sanno in questo momento i finanziamenti per la ricerca sono piuttosto in difficoltà, e quindi noi veramente facciamo così una call per tutti quelli che possono essere interessati, proprio perché abbiamo la necessità, per non, diciamo, perdere le opportunità che questo progetto offre, oppure per evitare che qualcun altro poi magari in qualche altro paese porti avanti queste iniziative, veramente di chiedere la collaborazione, in particolare anche di finanziamenti, per riuscire a in un paio d'anni arrivare a dei prototipi per poi vedere se questa nostra idea ha un futuro da un punto di vista industriale, oppure invece, diciamo, i costi non sono più alti di quelli che possono essere i benefici. Lo spero davvero, grazie Magni e in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie mille. È finita questa puntata di Möbius, non c'è più tempo, quindi dobbiamo chiudere. Cercate parrucchieri ecologici, mi raccomando, e poi segnalate l'insettone killer. Non è brutto, ma fa troppi disastri. Alla prossima settimana, buona serata a tutti e a tutte.